Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci scrivono, non facendoci mancare il calore del loro affetto. Fra questi ringraziamo anche la nuova gentile ascoltatrice che ha avuto la pazienza di scriverci una lunghissima lettera, temendo che non la leggessimo sino in fondo. Che sia nuova questa gentile ascoltatrice lo deduciamo dagli argomenti che ci sottopone e dalle proposte che ci fa. Per tutta la vita abbiamo lottato contro l'intolleranza e spesso abbiamo messo in rilievo le gravi responsabilità che in materia si sono assunte le varie religioni, fra cui in prima fila quella rappresentata dalla Chiesa Cattolica. È anche per questa ragione che non abbiamo il problema di cambiare religione. Nell'accettarne una ci sembrerebbe di venir meno proprio a quella tolleranza per la quale ci siamo poi dati tanto da fare. Grazie lo stesso. La stessa gentile ascoltatrice dice di aver inviato una lettera simile a quella inviata a noi anche a tali Scalfaro, Dini, Rutelli, Formentini e Berlusconi. Speriamo che a costoro, a differenza che a noi, non sia stato accluso il medesimo elenco dei destinatari. Se no, chissà in questo momento quali indagini sono in corso sul conto di Accame e Oliva. Cribbio, ma chi sono questi due?